alta l'attenzione di tutti i giocatori, ma anche l'attenzione degli spettatori. Entro in campo pronto a dare il massimo, inizia tutto qui, tutto in un attimo. Inizia la partita, mi viene da vomitare, ora devo concentrarmi e smetter di sognare. Tocco il primo pallone, è una grande emozione, io sotto la tribuna comincerò l'azione. Tu lasciami sognare, lasciami conquistare, il mio sogno è diventare un fenomeno a giocare. Lasciami cadere, fammi sbattere la testa, il mio sogno è nel calcio essere il primo della lista. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. E sono qui sul palco, da solo immobile, e gli occhi come un falco, irraggiungibile. Le orecchie spalancate di tutto il pubblico, e ogni mio errore si capisce subito. Questa è una canzone dedicata a tutte le persone che vogliono sognare. Ed ora insieme a me cominciatevi ad alzare, e tutti come me voglio sentir cantare. Tu lasciami sognare, lasciami conquistare, il mio sogno è diventare cantante di fama mondiale. Lasciami cantare, voglio solo dimostrare che io da solo posso fare quello che mi pare a me. Dimmi se son portato, dimmi se sei senza fiato, dimmi se lo posso fare, dimmi di sognare, dimmi se posso calciare, dimmi se posso cantare, dimmi se non so sognare, dimmi se non so suonare. Tu lasciami sognare, lasciami ricominciare, da due sogni che insieme formano un calciatore. Lasciami calciare, lasciami anche cantare, che due sogni posso averli, non puoi dirmi cosa fare. Tu lasciami sognare, lasciami ricominciare, da due sogni che insieme formano un calciatore. Lasciami calciare, fammi essere un autore, che due sogni posso averli, non puoi dirmi cosa fare. Dimmi se non lo puoi fare, dimmi se non posso fare, dimmi se non potrei fare, dimmi se lo posso fare, dimmi se non lo puoi fare, dimmi se lo posso fare, dimmi se non potrei fare, dimmi se lo posso fare.